Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Gigi Borghi in redazione, Filippo Aureggi in regia. Ciao Flavio Suardi. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Sai, uno dei problemi tutt'altro che marginali della pallacanestro di adesso è che il nostro basket non ha più in campo personaggi come loro, secondo me. Coach Dan Peterson, buongiorno. Amici sportivi, buongiorno a tutti. Coach Valerio Bianchini, grazie di essere qui, di aver accettato il nostro invito. Grazie, ma è una voce registrata questo o è il vero Dan? No, è registrato. Ah, ecco. Guarda, se c'è Bianchini non partecipo. Ah, te la dai a gambe come al solito, eh? No, Bianchini, no. Ok, quindi no, grande piacere. Grande Valerio, grande piacere. Grande Dan. Coach Dan, cosa ha dato Valerio Bianchini al movimento della pallacanestro italiana? Domanda epocale questa. No, ma cosa, guarda, ha portato? E di più, lui era il movimento cestistico in Italia, cioè, è come, lo so, è quando the Big Bang, hai capito? Cioè Bianchini, prima no, c'era, sì, grande silenzio, poi è arrivato Bianchini e ogni giorno titola nove colonne, Bianchini, due punti, virgolette. Per forza mi provocavi tu. Porca vacca, cioè proprio, e quindi e tutti parlavano. Lui ha fatto quello che ha fatto, secondo me, e poi Valerio è più storico su questo perché io sono venuto in Italia nel 73. Secondo me negli anni 60 o 50-60 è stata la voce di Rubini che ha creato, secondo me, un interesse della stampa. È nato Guerin Sportivo, o il Guerin Sportivo, metto sezione di basket, Guerin è nato nel 12, 1112, è nato anche Super Basket, Giordani in televisione, cioè Rubini ha capito questa profittata. Bianchini con la televisione più giornali quotidiani sportivi ha letteralmente lanciato le bombe a mano ogni giorno, nel senso positivo, voglio dire, ok? E la gente ha parlato di basket, magari dicendo Bianchini è un testo di Ravanello, l'ho detto anch'io, tanto per dire, ok? Però è stata una cosa che ha letteralmente sconvolto, a dir poco, il movimento, ma tutti parlavano di basket. Infatti il nostro finale, Roma, Milano, che hanno vinto loro nell'83 contro di noi, è ancora il record di media di pubblico, sì, per una serie finale, penso che sia ufficialmente dato a 12.500, fai conto, c'era 12.500 a Roma, 12.500 a Milano, di nuovo 12.500, però non so se Valerio è d'accordo con me, secondo me c'erano anche 15 a Milano, 16 a Roma di esatto, esatto, esatto, perché allora non era ancora stato ristrutturato il Palaeuro e in realtà arrivava anche a 14-15 mila persone. Sì, sono convinto di questo. E lì c'erano tutti. Poi Valerio Bianchini, io credo, lo penso, al di là di tutte quelle che vi siete dette, no, in quegli anni. E che ce ne diremo ancora. E che vi direte ancora, naturalmente, perché ci mancherebbe altro. Però credo abbia avuto la fortuna di incontrare sulla sua strada uno come Dan Peterson. E questo è assolutamente vero, perché quello che io ho sempre sostenuto è che Dan Peterson, apparso nel 72, è stato l'uomo della provvidenza, perché quelli erano i favolosi anni 70 in cui si inventava il futuro, in cui c'era l'immaginazione al potere e tutto il paese era in fermento, anche un fermento negativo, perché c'erano anche, certo, le Brigate Rosse, c'erano anche i famosi anni di piombo, ma anche un senso di guardare al futuro, di guardare a uno sviluppo. Il nostro modello era l'America. Per tutti noi siamo cresciuti col mito dell'America, noi del basket italiano, soprattutto noi milanesi, e ad un certo punto piomba sul campionato italiano e sulla civiltà sportiva italiana un tipo come Dan Peterson. Piomba un tipo come Peterson, oltretutto supportato da un altro genio come Porelli, e naturalmente ti cambia completamente il modo di percepire il basket. Inoltre, non dimentichiamoci che quelli furono gli anni in cui apparve la televisione commerciale. Sì. E Dan Peterson appare in televisione a raccontarci il favoloso mondo dell'NBA. Ma prima di allora, io personalmente, il favoloso mondo dell'NBA lo vedevo con Aldo Giordani che trafugava delle pizze cinematografiche dagli Stati Uniti, non so in che modo, e andavamo nei sotterranei dell'Usis qui a Milano a vedercele come dei carbonari. Ecco, improvvisamente arriva Peterson e ti porta Larry Bird, Magic Johnson in casa. Vi dico una cosa sola: io mi fidanzo con una ragazza che faceva teatro allora, che poi è diventata mia moglie, e il suo padre è un famoso doppiatore che poi è diventato amico di Dan, e io vado in casa di questa famiglia che non aveva mai visto una partita di pallacanestro. La mamma di mia moglie invece, siccome amava il pomeriggio fare le faccende, stirare, lei sempre guardava Dan Peterson e sapeva tutto di Magic Johnson, di Larry Bird e della pazza di Dan Peterson. E non sapeva chi aveva in campo. Non aveva mai visto una partita di basket. Coach, di Flavio. No, io volevo chiedere sia a coach Bianchini che a coach Peterson. Abbiamo parlato di grandi allenatori, ma secondo me mancano anche i grandi personaggi a livello dirigenziale. Abbiamo parlato dell'avvocato Porelli, per poi andare a prendere anche tutta la dirigenza della Milano di Dan Peterson. Beh, insomma, e quelli erano gli anni, non so se Dan è d'accordo con me, ma io mi sono fatto questa convinzione che in quegli anni era importantissimo il binomio coach general manager. E se tu vai a vedere Dan Peterson e Tony Cappellari, anche Morbelli, io prima con Morbelli a Cantù, Tanevich con Sarti a Caserta, Claudio Coccia, presidente della federazione, che faceva anche il general manager della nazionale, con Giancarlo Primo. Noi facevamo dei binomi fortissimi ed era esattamente quello che ci vuole per mettersi tra la squadra e il proprietario, dare delle garanzie al proprietario e trasmettere alla squadra i valori che vuole il proprietario. Eravamo una grande garanzia. Adesso l'allenatore è molto solo invece. Coach Peterson, cosa ne pensi? Aggiungo una cosa di più. Secondo me, se togliamo della conversazione i nomi di Ettore Messina e Sergio Scariolo, la gente si lamenta, poi magari uno è d'accordo o no, dell'abbassamento di qualità degli allenatori italiani. Ma se è vero, io non dico che è vero, ma se è vero è anche perché c'è anche un abbassamento del livello del general manager o l'importanza del general manager. Non ci sono più questi binomi, perché se tu prendi uno di questi allenatori italiani, gli metti con il Porelli di un tempo, il coach di un tempo, il Cappellari di un tempo, il Rubini di un tempo, emergono dei grandi allenatori. Cioè, loro sono gli allenatori italiani oggi, sono, a mio avviso, e non solamente italiani, ma anche gli stranieri che vengono qui a allenare, vittime oggi del fatto che non c'è questa guida in società, è, come hai detto tu, il cuscino fra società, anche pubblico, anche media, eccetera, e l'allenatore. Poi c'è stato anche chi, come Morbelli, è passato da Bianchini a Peterson. E adesso ho provvissuto. Ho avuto Morbelli per un solo anno, dopo l'anno mi sono ritirato, scherzando con lei, ho detto: Lello, guarda, un anno con te è valso una carriera, ok? Quindi, mentre sono in cima alla montagna, chiudo. Ma Morbelli è un dirigente con i fiocchi, ok? Ma quando l'hai visto entrare in palestra a Milano, cosa gli hai detto? No, ma eravamo sempre amici, c'è sempre stato grande, cioè rivale. Quando lui era a Cantù, l'ho mandato a quel paese più volte, e lui a me, ma poi sono cose che succedono fra persone che vogliono battersi e che si stimano, ma assolutamente. Sai quante volte io e Bianchini ci siamo mandati in quel paese? Anche la famosa partita a Milano, 6 minuti dalla fine, espulsi noi due, cioè sia Bianchini che Peterson, da cagnazzo che ha fatto un indice qua, un indice là, eravamo espulsi, però era perché volevamo vincere, abbiamo fatto battaglia, ma finito. Infatti io e lui, e Valerio, ci siamo trovati nel tunnel lì fuori, due piccoletti, e non vedevamo la fine della partita perché eravamo troppo piccoli, avevano le guardie davanti, due corazzieri davanti, sì. Esatto, e ci siamo parlati come non fosse mai successo, come due amici che eravamo amici, la partita era lì, eravamo tifosi a quel momento, però c'erano queste battaglie perché c'era rivalità, non odio. Sì, ma Dan, dilla fino in fondo, era una partita della famosa fase scema, ti ricordi? Prima, come no, come prima no, che cominciassero i playoff, se erano i playoff, col cavolo che stavo lì a chiacchierare con te. Ma la cosa che mi ha fatto arrabbiare, fra virgolette, è questo qui. Quando siamo stati espulsi, 6 minuti dalla fine, eravamo noi in casa a Milano, sotto di 13. Abbiamo vinto per 2 punti alla fine, con tiro di qualcuno da scadere. Io sto Bianchini, sono arrabbiato perché daranno la vittoria a Casalini. Ah, certo, ma lì si vede il valore di un assistente. Il vero assistente non vince mai quando sostituisce l'head coach. Quel Casalini lì voleva farti le scarpe, alla fine ci è riuscito. Ti do una statistica sul Casalini che è incredibile. In 9 anni in Milano, che era nato, 24 partite sono stato o espulso o squalificato. Ha vinto 23 su 24. È veramente scorretto. Quindi è scorrettissimo Casalini nei miei confronti. Poi vi leggo anche un po' di messaggi e parliamo anche con gli ascoltatori. 800 24 00 24. Numero verde, messaggi 349 238 6666. Per i messaggi ne ho un sacco, bellissimi tra l'altro. Uno è questo: che peccato pensare che serie finali come quella dell'83 siano state giocate al meglio delle tre partite. Grazie per il regalo che ci state facendo con queste due leggende del basket. Riccardo da Torino. Quella è stata l'apice dei vostri confronti, no? Quella finale, Valerio. Però sì. Io ricordo una serie Milano-Cantù. Ah, sì, Milano, sì, poi vinceste lo scudetto. Billy Squibb, in cui vittoria di un punto di Cantù a Milano, vittoria di Milano di un punto a Cantù, e poi? Valerio. Vittoria di Cantù per un punto dopo due supplementari. È stata la più grande serie mai giocata nella storia del basket italiana, assolutamente. Sì, sì. Poi con quello straordinario pubblico purtroppo del palazzo che è crollato, palazzo lì è crollata la pallacanestro. Sì, sì, ma guarda, mi ha detto addirittura, Valerio forse non sa questo, c'era Cesare Rubini la partita con sua moglie e quando ha cominciato il secondo supplementare, lo stress era tale che la moglie di Cesare Rubini ha detto: Cesare, portami via o muoio di un colasso coronario qui. E lei è andata via. C'era gente che non riusciva emotivamente a sopportare la pressione, la tensione, lo stress. Ma che era. C'era lì, ti ricordi che si ruppe il cronometro? E allora si ruppe il cronometro del Palazzo dello Sport e nel primo supplementare. Mi facevo dire, contavo io, però nella confusione totale a un certo punto c'è un tiro, finisce, e io me ne vado convinto aver perso. E mi richiamo e dice: guarda che c'è un altro supplementare. Oh, dico, il reborning, mi sono rinato un'altra volta. Sì. Sono rinato un'altra volta. Le cose famose Bianchini, cioè, anche questo qui, ma... che una volta Bianchini non mandava dentro il sostituto, le faceva un discorso prima, e voleva mettere il barriere e dice: Barabba, vai dentro, questo è il tuo momento. E il barriere dice: coach, non posso. Perché non puoi? Coach, 5 falli. E quindi 5 falli. Ma anche io ho fatto lo stesso errore qualche volta con il giocatore, perdevo conti di... noi guardavamo la partita, non cioè, ma loro. Poi ti pare che Barriera con 5 falli viene a sedersi vicino a me, ma vattene in fondo alla panchina. Probabilmente era colpa di un assistente scorretto anche quello che voleva farmi fare la figuraccia. Sicuro. Cosa, motivatore eccezionale se ce n'è uno, Valerio Bianchini. Allora ti racconto il più grande numero di Bianchini. 83, questa finale, prima di gara 1, noi siamo a Roma, e per occuparci la mattina facciamo un giretto a piedi e andiamo a palazzetto lì in Viale Tiziano perché magari c'è qualcuno lì, non sapevamo che ci sarebbe stato Valerio con una squadra, Banca Roma, Larry Wright, tutti a fare allenamento lì, che noi pensavamo faranno loro allenamento alle ore, no? Allora momento di grande imbarazzo, cioè loro vedono noi vediamo loro, io dico: oddio, non sapevamo, cioè. E tutta la squadra di Banca Roma si ferma e Bianchini, cioè carpe diem come si dice, prende il momento e dice: avete paura, parlare della sua squadra con i suoi giocatori, voi avete paura del Billy, avete paura, cioè, fa una scena, tutti i suoi giocatori arrabbiati con lui, ma così arrabbiati che ci hanno battuto la serie, cioè, ha rovesciato una cosa dove gli avversari vengono dentro come prepotenti e lui rovescia tutta la cosa al suo favore. Questa è stata la motivazione, questo è stato il numero. Vabbè, io motivavo i giocatori, ma tu hai motivato l'intera Milano quando nel cuore della Milano craxiana, della Milano da bere, avevi in mano la tessera e tu ti sei ha inventato quello slogan incredibile: Milano è la 24esima squadra dell'NBA. Lì ha illuso tutti. Eri ubriaco quel giorno, non bevi mai, ma sei stato assolutamente geniale, perché hai dato la sensazione a tutti i milanesi, a tutti i tifosi della tua squadra, di essere nell'NBA, di sedersi sulla poltrona NBA venendo a vedere giocare la tua squadra. Coach, noi ci sentiamo venerdì prossimo. Valerio Bianchini, ce lo teniamo qua, così continuiamo a parlare male alle tue spalle. Lui è la fonte di storie che non finisco mai. Amici sportivi, Valerio, un abbraccio, ci sentiamo. Ciao, okay? Ciao. Ciao, coach. Palla spicchi. I messaggi ce ne sono un sacco. Paolo di Salerno: ringrazio mister Bianchini per avermi regalato la passione per il basket e per Cantù. Prima amavo solo il calcio e la Salernitana. 800240024 anche per sentire la vostra voce, sì, Flavio. Tra l'altro, a testimonianza del fatto di quello che hanno lasciato questi due grandi allenatori, leggo anche un altro messaggio. Dan Peterson e Bianchini, due grandissimi professionisti. Io ho un sogno: rivedere Peterson sulla panchina di Milano. Dan si è ritirato tantissimi anni fa. 87, sono passati una ventina d'anni. Anche Jordan si era ritirato, eppure è ritornato. Dan, the great comeback, ritorna. Però quando noi parliamo di quella finale, Carlo, Roma-Milano, parliamo sempre di grandi metropoli. Grandi metropoli che ultimamente latitano. Può essere questa una delle cause del calo anche degli spettatori, dell'interesse, del peso del basket italiano? Sei, tu eri piccolo, ma questo è il signore che per primo ha battuto duro sul tasto dell'importanza delle metropoli nella pallacanestro italiana. Questo è talmente ovvio, perché a parte che noi abbiamo vissuto quell'esperienza di Milano contro Roma. Ora, Milano contro Roma è una rivalità da sempre. Milano contro Roma significa la Milano industriale, la Milano dei valori economici, eccetera, contro la Roma ministeriale, la Roma del potere politico, eccetera. Quello scontro ha affascinato tutti gli italiani, perché più o meno tutti gli italiani nel nord si identificano un po' con Milano, nel centro-sud con Roma come punto di riferimento, e quindi ha coinvolto tutta la nazione. È diventato veramente un grande campionato nazionale proprio per queste ragioni. Naturalmente è ovvio che nelle grandi città ci sono tutti i mezzi, ci sono le televisioni, ci sono i mezzi, i grandi giornali. Il fatto che non ci sia Napoli, che non ci sia Torino, che non ci sia Firenze è un grave danno al nostro movimento. In più bisogna dire che il nostro movimento si è sempre molto caratterizzato sulle squadre di provincia, perché per le squadre di provincia è anche più facile realizzare una squadra, un complesso che funziona bene. Basta pensare anticamente a Cantù, basta pensare al grande periodo della Benetton, certo. Basta pensare attualmente a quello che sta facendo Siena. Però tuttavia, nonostante la validità grandissima di queste esperienze, loro non possono essere un vero modello di sviluppo. Il modello di sviluppo per un grande movimento può venire solo da una grande città, perché è la grande città che capisce in che direzione prendere per comunicare, per ampliare sempre di più la propria voce. E la stessa Bologna, che è Basket City, ma è la città dell'utopia, non può avere riscontri in altri posti. Dopo il tempo delle metropoli, infatti, è arrivato il tempo di Basket City. Alla luce di questo ragionamento, non so se questo sia stato un passo avanti per il movimento italiano, insomma. No, che ci sia Basket City è sempre una buona cosa, perché non dimentichiamoci che Bologna non è soltanto un fatto di tifo, il basket a Bologna, è un fatto di cultura, questo è molto importante. Cultura significa che tu hai grandi personaggi, hai grandi artisti che si avvicinano alla pallacanestro o che sostengono la pallacanestro, ma faccio un nome per tutti, Lucio Dalla, per dire, no? E quindi questo è secondo me un grande beneficio per il basket. E oggi come sta il basket italiano, secondo lei? Il basket italiano dal punto di vista della Serie A, perché qui oramai intendiamo il basket italiano in senso generale, ma non è così. C'è un basket italiano di Serie A, diciamo professionistico, e non parlo della 2, parlo della 1. che sta dal punto di vista tecnico riprendendosi, perché si è dato finalmente delle regole, si è dato per esempio queste delle finestre, abbiamo visto che invece della follia del mercato, della follia del mercato di questo via vai di giocatori, di questa confusione totale, adesso intanto ci sono stati migliori, una qualità migliore di giocatori, ma anche perché sapendo che tu non li puoi cambiare continuamente, non prendi degli scalzacani che poi cacci a calci nel sedere il giorno dopo, pensi di prendere già giocatori buoni, e sono venuti dei giocatori buoni, tant'è vero che alla prima finestra non ci sono stati sconvolgimenti, sono state piccole cose, e poi ci sa, e questo dare le regole vuol dire obbligare i general manager, i presidenti, gli agenti, come fanno tutto loro, a pensare anche al futuro, non soltanto all'immediato, a dare l'uovo oggi e non avere mai la gallina domani. Questa come prima cosa. Seconda cosa, questo fatto di tenere i giocatori lì ha dato più stabilità alle squadre, anche se poi magari a farne le spese adesso sono gli allenatori, perché non potendo cambiare i giocatori si cambiano gli allenatori, e qualche volta è necessario, ma qualche volta è veramente superfluo. Ora però una maggiore stabilità significa anche la possibilità che queste squadre acquisiscano una forma e non che giochino la prima cosa che capita, come succedeva lo scorso anno, che tutte le squadre giocavano allo stesso modo, a parte alcune particolarmente felici, ma con un linguaggio anonimo, senza una caratterizzazione tecnica, senza una cultura tecnica. Adesso ci stiamo mettendo su una strada migliore in questo senso. Resta il fatto che naturalmente il mondo professionistico ha bisogno di regole, le regole sono state rispettate perché le squadre che non hanno temperato i loro doveri sono state espulse dal campionato, ma certamente l'impressione è che a parte alcune squadre che sono attrezzate sotto tutti i punti di vista, per molte questo tipo di professionismo non sia sostenibile. Adesso poi stiamo andando incontro a un periodo di grande incertezza dal punto di vista economico, e quindi sarà bene, secondo me, che il futuro presidente federale si ponga questi problemi, che ampli lo sguardo. Sembra che oramai sia soltanto una questione di raccogliere i voti delle piccole società nei pollai delle piccole società per ramassare questi voti e finalmente fare un consiglio federale espresso da queste piccole società. Sarà così perché finché non si cambia la legge elettorale, cosa che si dovrebbe fare, ma non si fa, perché questa legge consente a chi ha il potere di mantenerlo all'infinito, chiaro, perché questa è la verità. Ecco, allora si prende a emblema Meneghin, però da Meneghin poi ci aspettiamo che lui sia come l'arcivescovo di Canterbury, che è stato messo a quel posto da Enrico VIII, prima erano grandi amici, ma poi l'arcivescovo di Canterbury ha governato secondo coscienza e secondo il bene, contro anche la volontà di Enrico VIII, finché Enrico VIII non gli ha tagliato la testa. Vabbè. Ma io mi aspetto che così Meneghin faccia, prendendo le decisioni che deve prendere. Sì, dipenderà anche dagli uomini che si sceglie, perché se poi si sceglie gli stessi di prima, forse cambierà poco. Sì, era quello che volevo sottoporre al coach, cioè è anche una questione non soltanto di presidenza, ma anche questione di squadra, di persone di cui Meneghin si andrà ad attorniare. Secondo me, per esempio, il fatto di puntare molto sull'esperienza di Recalcati in seno al settore squadre nazionali potrebbe essere già... Sì, beh, lì bisogna fare chiarezza, perché se Recalcati è l'allenatore della nazionale, non può fare il consigliere federale anche l'allenatore della nazionale, perché è un conflitto di interessi evidente, cioè il consiglio federale nomina l'allenatore e lui nomina se stesso, cioè lì c'è ancora grandissima confusione, diciamo la verità. E bisogna aspettare che cosa succederà nel Consiglio federale. Però io vi faccio un esempio semplice. Voi sapete, io adesso sto lavorando con gli arbitri a livello di Euroleague, ma anche mi occupo anche dal punto di vista dell'istruzione degli arbitri italiani. Io vi dico, noi abbiamo un eccellente gruppo di arbitri italiani adesso, ma dietro è veramente un grande mistero, un grande punto interrogativo. Perché? Non perché non ci siano arbitri di valore, ma perché il sistema di produzione degli arbitri, di reclutamento degli arbitri, è un sistema inquinato, e vi faccio proprio un esempio evidentissimo. Ora, ogni regione, perché qui c'è la solita divisione regionale, no? Ogni regione ha diritto ogni anno a un certo numero di arbitri promossi. Sì. e può capitare che una grossa regione abbia, che so io, 5 posti per arbitri che vengono da sotto e un'altra invece una piccola regione abbia 2, no? Se la piccola regione putta caso ha solo due posti a disposizione e ha 4 arbitri buoni, 2 vanno, gli altri 2 si perdono. Certo. Mentre la grande regione che ha 5 posti e magari ha un arbitro solo buono, ma deve mettere 4 mediocri dentro perché la legge, perché la suddivisione elettorale dice così. Questo è un vero delitto contro il basket. E se il presidente federale non mette mano a questa vergogna, noi non otterremo mai niente da questa federazione. Palla spicchi. Dunque, abbiamo qui Valerio Bianchini e abbiamo un sacco di ascoltatori che hanno chiamato il nostro centralino, quindi seconda parte del programma a loro dedicata. Giancarlo da Cremona, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, buongiorno Coach. Ciao. Tra l'altro sono transitato da poco in un posto che dovrebbe ricordare qualcosa. Torre le dice niente. Ci sono stato 2 giorni fa. Allora, al di là di questo, concordo pienamente con quanto detto sugli arbitri. Io sono un dirigente di una squadra di Serie C e il vuoto assoluto lo sottoscrivo, quindi concordo pienamente. Non per colpa dei ragazzi che fanno gli arbitri, ma per colpa di tutto il sistema che li sorregge, anzi, che non li sorregge affatto. Ma detto questo, io quest'estate sono stato a Siena, ho avuto l'opportunità di assistere a una premiazione di Simone Pianeggiani, il Mangiadoro che gli hanno consegnato, e ho parlato con Minucci. Mi ha dato l'impressione che questi ragionino in grande pur vivendo in una piccola realtà. Lei cosa ne pensa? Ah, sono assolutamente d'accordo con te, loro sono stati esemplari. Sono stati esemplari perché a fianco di una squadra di Serie A che funziona benissimo, guidata da allenatori italiani, dei quali uno cresciuto proprio lì, io mi ricordo che era un allenatore delle giovanili quando nel 93 ero lì io ad allenare a Siena, e quindi un percorso costante dentro la cultura senese e dentro la tradizione del basket senese, che non dimentichiamo ha avuto grandi allenatori come Cardaioli, e hanno dato un assetto straordinario. Pensa soltanto al fatto che quest'anno sono riusciti a mantenersi McIntyre, Stoner, che tutta Europa li voleva, e questo vuol dire continuità. Allora, quando tu hai una squadra che ha continuità, che ha presenza sempre degli stessi grandi giocatori a cui la gente si affeziona, è come se fossero italiani loro. Certo. Allora non c'è questa grande differenza, è quando cambi continuamente i giocatori, è questo. Ma sotto loro hanno anche un vivaio floridissimo e hanno una rete anche di vivai collaterali, cioè pensano anche ai giocatori italiani, pensano anche al futuro. Loro sono un grande esempio, però ti dico, non tutte le squadre possono avere il Monte dei Paschi alle spalle e l'intera città come hanno loro. Naturalmente queste cose a Roma e Milano sono molto più difficili, però bisogna provarci anche a Roma e Milano, e il problema è che Roma e Milano ci provano poco. Siena, io ho l'impressione, dà l'idea di essere all'apice del suo ciclo, cioè ha cambiato un altro paio di tasselli migliorandosi ancora, migliorando ancora questo gruppo. È chiaro che adesso il grande obiettivo è l'Eurolega, però lì come fai? Sbagli come nel calcio, sbagli un tempo e vai a casa. Detto questo, Roma, che invece ha cambiato Repesa e le notizie di questi giorni, non ti dà l'idea, pur avendo grandi ambizioni, pur avendo mezzi, non dà l'idea di aver cominciato a costruire qualcosa, di essere un work in progress vero? Se in pochi anni Roma ha cambiato, se ben mi ricordo, ha cambiato Caia, ha cambiato Bucchi, ha cambiato Pesic, adesso cambia, forse ci sta qualcun altro in mezzo, adesso non ricordo, adesso cambia Repesa, cioè tutti grandissimi allenatori. È possibile che non ce ne sia uno a cui la società possa affidarsi per una costruzione di qualche cosa che vada avanti nel tempo, che accumuli cultura, che accumuli esperienza e che possa portare la città al livello che merita? Cioè, a me sembra veramente un suicidio questo. Io sinceramente credo che la dirigenza lì, qui non condivido questa scelta. Io mi sarei messo completamente dalla parte dell'allenatore, un allenatore che ti aveva portato alla finale scudetto lo scorso anno e quindi era pronto a portarti ancora allo scudetto e magari a vincerlo, e bisogna dargli il tempo, e un allenatore che comunque ti tiene in testa il tuo girone in Euroclub. Quindi dei valori, i giocatori bisogna appoggiarlo. Cioè, quest'anno cosa è stato fatto? È stato fatto che, contrariamente agli anni scorsi, finalmente Roma ha speso bene i soldi per quanto riguarda i giocatori, scegliendo degli ottimi giocatori. Però non basta poi scegliere, bisogna anche poi gestirli. E quello che non puoi lasciare tutto in mano all'allenatore, e poi se l'allenatore ha il mal di pancia, finisce tutto. Io credo che quel discorso che facevamo prima con Peterson, è importante che il binomio general manager allenatore sia solidissimo, proprio per dare garanzie e tranquillità al proprietario e per dare la possibilità di fare un lavoro continuativo sulla squadra. Coach, secondo lei Gentile, che adesso ha ereditato, sembra temporaneamente, la panchina di Repesa, ha una grande occasione, ma potrebbe anche essere l'uomo per continuarla questa stagione? Guarda, mi fai una domanda molto imbarazzante, perché tu capisci che... No, nel senso, non voglio dire... La questione è un allenatore molto, molto giovane, un allenatore emergente che ha comunque... È un allenatore, bisogna vedere che scuola ha come allenatore. Lui ha, Gentile, ha sicuramente una eccellente personalità e poi ha avuto anche grandi allenatori. Esatto. Soprattutto ha avuto Tanić, diciamo, un allievo di Tanić. Poi è stato anche Obradović, insomma, ha fatto grandi esperienze come giocatori. Però questo non è automatico che diventi una grande cosa, un grande bagaglio per fare l'allenatore. Poi per fare l'allenatore ci vuole, i grandi giocatori che poi hanno fatto sono diventati grandi allenatori, io non ne ricordo tanti, ma ricordo per esempio Recalcati, che è partito dalla Serie B a Bergamo, prima ancora a Parma, poi a Bergamo, poi è andato da anni a Reggio Calabria, poi ha fatto una gavetta tremenda. Sai, io sono un po' all'antica, penso che la gavetta sia una cosa buona, che poi uno invece improvvisamente mette le sue chiappe sulla panchina di Euroleague, poi dopo, vabbè, può darsi che adesso succeda così, ma io non ne sono tanto convinto. Massimo, provincia di Milano, buongiorno. Ciao Carlo, ciao Flavio. Ciao Massimo. Saluto anche Valerio, se si ricorda di me, le nostre cene con Rolando. Oh cavolo, alla grande. Stai bene, tutto ok. Benone, ci conto ancora su quelle cene? Bene, noi dobbiamo, ci puoi giurare. Domanda provocatoria. Avete parlato spesso di binomi general manager e allenatori, sempre spesso vincenti quantomeno. Ma non pensate che oggi le società non sono più tanto in mano a queste persone, o non si fidino ciecamente di queste persone, bensì ai procuratori? È un po' retorica come domanda, domanda retorica. No, nel senso che ormai è così, ci sono tanti esempi anche in categorie importanti, o no, coach? Cioè, il problema è che con questa una volta gli allenatori prendevano la loro valigetta in America, andavano dei camp, cioè quando dovevi scegliere due americani, tre americani, avevi il tempo. Adesso ne devi prendere otto, e poi alcuni nei paesi dell'est, altri nel nord Europa, no? Non può essere presente dappertutto, perciò i procuratori diventano anche fondamentali, però dovrebbe esserci comunque una barriera tecnica tra la squadra e i procuratori. I procuratori ti offrono il loro mercato, la loro lista di giocatori, ma poi è l'allenatore e assieme al general manager che sceglie. Adesso invece spesso sceglie il presidente con il procuratore. Sì, e magari il presidente faceva dell'altro fino a qualche mese prima. Questo sicuramente, e quindi lì la competenza si abbassa, perché gli stessi procuratori possono essere sicuramente bravi, ma non sono allenatori numero uno, non conoscono le esigenze che ha l'allenatore di quella specifica squadra, se non per sentito dire. In più, come tu ben sai, ogni bottegaio vende la roba che ha in bottega, non va a dirti no, guarda che c'è un barattolo di Nutella che è meglio da quell'altra parte. Quindi è una cosa talmente ovvia, però è un buon senso che purtroppo si è perso. Siamo a Reggio Emilia, Cristian, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno signor Bianchini. Io ho chiamato perché vorrei fare due domande al coach. Prego. Allora, la prima, vorrei chiedergli qual è il giocatore nella sua carriera di allenatore che l'ha fatto più tribolare, cioè il giocatore avversario. E secondo, se in una sua ipotetica classifica dove piazzerebbe Drazen Petrovic? Drazen Petrovic nella mia classifica l'ho messo al numero uno, perché ho un ricordo straordinario di lui qui in Europa, ho un ricordo di lui in Europa come re d'Europa, sovrano d'Europa assoluto, e che prende, si toglie la corona, abbandona il mantello di re, lascia lo scettro, prende una valigia e va negli Stati Uniti a dimostrare che è un giocatore anche lì. E sta due anni, i nostri si lamentano perché non giocano, ma il grande Drazen Petrovic è stato due anni col culo sul legno della panchina di Portland, senza emettere un sospiro, è stato lì duro a resistere mentre gli altri giocatori gli facevano il mobbing perché non era un americano. Adesso è normale essere europei nell'NBA, ma allora non era così, e lui è stato lì duro, ha sofferto in silenzio finché è andato a New Jersey, dove ha trovato per sua fortuna Rich Dalatri, che gli ha dato uno spessore fisico, e lui la classe immensa ce l'aveva, e lui lì ha cominciato a dimostrare di essere un grande giocatore NBA, straordinario carattere, straordinario, però, come si dice, vittima anche dell'invidia degli dèi. Quando uno è troppo bello, troppo bravo, troppo buono, ce lo portano via, e lui non ha paragoni in Europa. Quindi è la risposta anche alla domanda sul giocatore che più avversario che più ti ha... Beh, lui non l'ha avuto, purtroppo non l'ha avuto tanto avversario, l'ha avuto in avversario nazionale, quando ho allenato la nazionale. E... giocatore avversario, magari era il numero 8 di Peterson. Il numero 8 di quello che avresti eliminato volentieri, D'Antoni. Mike, sì, in quegli anni là sicuramente. Mike era tremendo perché tu sapevi che era l'anima della squadra, sapevi che era quello che ribaltava il risultato. Però allora lasciatemi dire che ho avuto anche una piccola soddisfazione in questo senso, perché quando abbiamo battuto con Pesaro, poi io sono andato a Pesaro, io sono sempre stato avversario di Milano con Peterson quando ero a Cantù, poi Roma con Peterson, poi sono andato a Pesaro e Peterson non c'era più, mi sono scatenato, madonna. E lì c'è un fotogramma che per me è esattamente come quando issano la bandiera Iwo Jima, no? Sì, c'è un fotogramma che c'è, la terza partita a Pesaro, stiamo vincendo, D'Antoni non si è ancora arreso, tenta un'estrema possibilità di rubare una palla a Magnifico e scivola per terra, e Magnifico chiude il pallone in un braccio, gli punta il dito contro, D'Antoni per terra, e gli dice resta lì, e quella è un'immagine che non scorderò mai più. Palla spicchi. Così, tornati, Filippo Oregi, Tiranno ci dà ancora 9 minuti per chiacchierare con Mario. Allora, facciamo così, prima di dimenticarcela, fuori onda Coach Bianchini ci ha detto, e poi ve ne racconto una anch'io su Bariviera, e allora non perdiamo la prima, di prima che il tempo sia troppo sì, cattivo. Perché questo Bariviera, che è, diciamo, paritario, no? Racconta sempre questi due episodi, lui ha avuto tutti e due, no? E Peterson ha raccontato uno col Bariviera Canturino. Allora adesso vi racconto l'altro. Col Bariviera Milanese. E la squadra di Milano va a giocare a Kaunas. Lì allora, a quei tempi, bisogna passare per Mosca, insomma, era tutto molto difficile. Non so per quale ragione, al ritorno, dopo la partita, ritorno a Kaunas, arrivano a Mosca, ma non c'è l'aereo per l'Italia, devono passare la notte nell'aeroporto, sdraiati per terra o sulle poltrone delle scomode del vecchio aeroporto di Mosca. Finalmente il giorno dopo arrivano a Milano, stanchissimi, eccetera. E Dan dice: vabbè, ragazzi, allora adesso riposatevi, poi alle 6 vi voglio all'allenamento al Paralido. Alle 6, allora tutti vanno a casa, tornano tutti alle 6 al Paralido e Bariviera non c'è. Comincia l'allenamento e Cappellari tutto preoccupato, Peterson non dice niente, Cappellari tutto preoccupato dice: ma cerchiamo Bariviera, telefono a Bariviera, non risponde, no, vanno a casa di Bariviera che dormiva profondamente, ma a quel punto lì oramai non c'era più il tempo di tornare al Paralido a fare l'allenamento, stava finendo. Allora gli dice: oh, domattina mi raccomando, c'è l'allenamento dopo, era venerdì, c'è l'allenamento dopo il sabato mattina, oh, mi raccomando Barabba, sì, Barabba arriva naturalmente con una strizza tremenda, che chissà cosa gli avrebbe detto Peterson, no? Arriva al Paralido e va, l'esposito si cambia e cerca di entrare al Paralido con le orecchie basse e incoccia proprio in quel momento lì Dan Peterson, che scende dalla scala tutto pimpante, lo vede e dice: ok Barabba, oggi è un altro bel allenamento come quello di ieri sera, eh? Cosa ne dite? Magari è fatto apposta. Beh, un grande psicologo. Secondo me non si era accorto che non c'era Bariviera all'allenamento. L'ha fatto Casalini l'allenamento. Paolo Salerno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio, avete citato il mio SMS. Ah, eccolo. Poc'anzi, in quanto ero tifoso della Salernitana, ringrazio mister Valerio Bianchini che mi ha fatto appassionare a questo sport che, col dramma del calcio, dei conti, degli imbrogli presunti, veri, mi ha regalato una passione sportiva in più. E poi guarda, ti aggiungo questo, che sì, di cui sono molto orgoglioso, che con lo scudetto di Roma, del Banco di Roma, io ho aperto, ho fatto passare la linea gotica allo scudetto, ho aperto lo scudetto al centro-sud, tanto è vero che poi dopo l'ha vinto anche Caserta. Io posso parlare? Sì. Io ho fatto per Cantù, ripeto, io amavo la Salernitana e il calcio, e con mister Bianchini ricordo buonanima di Dennis Innocentin, quindi ricordo grandi campioni come Mazzorati, Riva e altri, fine anni 80 e probabilmente tra il 78 e l'85 probabilmente, sì. Quindi io sono del 70. Faccio solo una considerazione, una domanda e completo il mio intervento ringraziandovi. Sì. La considerazione che io ricordo, che andavo a scuola al geometra, ricordo un Berloni Torino Cantù 80-81 all'ultimo secondo, e pareggiammo nei quarti dei playoff la serie sull'1-1 perché Torino aveva vinto a Cantù, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, quell'81-80. Ricordo un Aldo Giordani con una telecronaca tipo alle 3 di notte su Rai 2 e io lì che fingevo di dormire con il televisore 12 pollici. È appassionante. Vabbè, la domanda mister Bianchini, è concluso, sì, salutandovi, è questa. Vorrei sapere, ed è anche una forma sarcastica questa domanda, qual è la volta che hai imprecato di più con gli errori al tiro libero di Antonello Riva? Arrivederci. Beh, insomma, non è che ne faceva tanti Antonello Riva di errori, pochini, però proprio su Antonello Riva al tiro libero e sul casino che faceva Peterson in quella partita che abbiamo prima ricordato, poi alla fine mi sono incazzato anch'io e Cagnazzo espulse sia me che Peterson, forse quella partita lì senz'altro. Quanto al resto, la vita di tutti quelli che hanno amato dall'inizio e imparato ad amare il basket è costellata da un sacco di flash, di episodi che tornano in mente come le canzoni di quando erano ragazzini. Sì, no? Per tornare un po' ai giorni nostri, un messaggio le chiede, coach: non rimpiange una riscossa con Varese partendo dalla Lega 2? No, beh, certamente. Adesso la situazione è molto difficile l'anno scorso con Varese, perché l'anno scorso è stato l'anno, secondo me, orribilis della storia del basket, il peggior anno della storia del basket, proprio per questo continuo via vai di giocatori. E io dico sempre che l'allenatore è un po' come un direttore d'orchestra, no? Se tu vuoi fare dici adesso quest'anno facciamo, che so io, Beethoven, no? Poi dopo però vedi che ti vanno via continuamente tutti gli orchestrali, cambiano continuamente, alla fine fai la mazurka di Forlì, no? Quindi un po' è successo questo, perché abbiamo avuto una moria di giocatori pazzesca, un andare e vieni di giocatori, in più una mancanza di identità totale, perché questi giocatori, questi stranieri non si identificano mai, difficilmente si identificano la squadra, si stanno poco tempo, ovviamente non, è una cosa naturale, per cui certamente, però certamente sarebbe stato bello riprovarci, però obiettivamente non c'erano le condizioni, per cui è molto meglio che ci sia Spilastrini adesso. Io chiuderei con Cantù, proprio con Cantù, perché anche sulla scorta della domanda dell'ascoltatore, quella di ora di Cantù è una filosofia opposta, se vogliamo, a quella dei primi anni Ottanta. Allora, Innocentina abbiamo citato, Antonello Riva e tutta quella generazione di fenomeni che arrivava dal settore giovanile. Cantù adesso vive il basket in maniera profondamente diversa. Questo fa, guarda, dispiace un po'. È diversa, ma alla fine è la stessa cosa. Cioè, cosa faceva Cantù? Cantù aveva la sua squadra, diciamo, in Serie A con Taurisano, che era uno straordinario allenatore, e che la portava anche allo scudetto, ai massimi vertici. Però sotto produceva tutta una serie di giocatori che poi distribuiva in tutta Italia. Quando io andai Ramingo a Roma ad allenare la Stella Azzurra, mi portai Giancarlo Lazzari, che era un prodotto di Cantù, per dirne una, Tombolato più tardi, eccetera. Quindi produceva giocatori per tutta la nazione, praticamente. Con la caduta del vincolo e soprattutto con la liberalizzazione degli stranieri selvaggia, come abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora, Cantù si è trasformata. Cantù ha cominciato, grazie alla presenza di una persona eccezionale come Arrigoni in società, ha cominciato ad andare a trovarsi i giocatori stranieri migliori, e guarda quanti. Sì, sì. E poi naturalmente li ha fatti giocare la propria squadra, e poi per forza, siccome erano bravi, poi venivano allenati bene dagli allenatori lì locali, e poi alla fine dell'anno gioco forza venivano ceduti. Però è stata una funzione importantissima di Cantù anche in questo senso, perché quanti ne sono usciti? Stonerock, Kauken, ma quanti? McIntyre, una cosa pazzesca i talenti che Cantù ha scoperto. Peccato che ha scoperto tutti i talenti stranieri che poi magari vanno in altre nazioni. Ma la situazione è questa, ma non è colpa di Cantù, è colpa del legislatore che deve pensare anche al basket italiano, perché ancora stiamo vedendo. Io guardavo i tabellini lì delle partite, non c'è un italiano nei primi cinque, insomma. Ci diamo appuntamento per parlarne un'altra volta con questi microfoni, anche perché quest'altro fronte che non abbiamo toccato è un po' quello che interessa a tutti. Io intanto per il momento ringrazio il professor Bianchini della cavolo, il tuo professore, sono manco bidello. Ciao Flavio Suardi. Ciao, alla prossima. Gigi Borghi in redazione, Filippo Aureggi in regia. Palla Spicchi torna venerdì prossimo, con lo sport ci sentiamo domani pomeriggio alle 17. Buona serata a tutti.